Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. La nuova sfida della Chiesa Cattolica, travolta dagli scandali, parte dall'arcivescovo Fisichella, conoscitore della politica e ottimo comunicatore. Un teologo che porta la gente in piazza sarà il tramite tra Benedetto XVI e la gente. Benedetto XVI vuole che la Chiesa Cattolica parli al mondo che la contesta e ha scelto per questa sfida un uomo combattivo, l'arcivescovo Rino Fisichella, che considera il nostro tempo tra i più affascinanti della storia dell'umanità, ma anche il teatro di una grande sfida tra cristianesimo e paganesimo. Il compito che gli ha affidato il Papa, facendolo presidente del Consiglio per la nuova evangelizzazione, è di esplorare un terreno sconosciuto. È la prima volta che Benedetto, che si era proposto all'inizio di snellire la curia, crea un organismo nuovo, e dunque tutto suo, utile a intenderne la veduta. Annunciandolo, ha detto che è necessario trovare i mezzi adeguati per riproporre il Vangelo di Cristo all'Occidente, i cui popoli stanno vivendo una drammatica eclissi del senso di Dio. Fisichella dovrà dunque cercare i mezzi attraverso i quali la Chiesa Cattolica possa farsi ascoltare nei paesi già cristiani, ma che sembrano non amare più il cristianesimo. L'incarico è importante perché è vicino al cuore di Papa Ratzinger, che un saggista francese cattolico liberale, Bernard Lacombe, ha qualificato come l'ultimo Papa europeo. Così è intitolato un suo volume tradotto dalla San Paolo nel 2007. Ma egli non vuole chiudere la serie dei papi del nostro continente. Non vuole cioè che l'eclissi di Dio diventi qui da noi irreversibile. Si direbbe che intenda giocare su questo fronte tutte le carte di cui dispone. Che suggerimenti potrà dargli un uomo come Fisichella, teologo per formazione, buon conoscitore delle università americane e dei nostri ambienti politici? Ha fiuto per i movimenti di opinione e attitudine a parlare ai media per dichiarazioni, interviste e partecipazioni a tribune televisive. Fece il colpo il 31 maggio del 2007, la sua presenza a una puntata della trasmissione Anno Zero di Santoro sui preti pedofili, in un tempo in cui gli ecclesiastici rifuggivano dall'affrontare questa materia catramusa. È stato tra i promotori e gli interpreti del Family Day del 12 maggio 2007. È verosimile che proponga più frequenti uscite nelle piazze, sia in quelle delle capitali, sia in quelle televisive e del web. È lui che ha portato da Papa Ratzinger Oriana Fallaci e Magdi Allam quando non era ancora cristiano. È netto nelle posizioni, ma non è un nostalgico. Per il giubileo del 2000 ebbe incarichi nei settori sensibili del simposio sull'applicazione del Vaticano II e della purificazione della memoria. La nettezza delle posizioni lo fanno applaudire dalla destra, ma una volta che gli fu chiesto se Romano Prodi avesse diritto a fare la comunione, stante la sua politica di apertura alle coppie di fatto, rispose netto: ha diritto di chiederla e di riceverla. Fisichella non si troverà isolato in questa offensiva per una nuova cittadinanza del senso religioso in Occidente. Insieme alla sua nomina è stata annunciata quella a prefetto della Congregazione per i Vescovi del cardinale canadese Ouellet, che una volta ebbe a dire: «È giunta l'ora di imparare di nuovo il rispetto della religione, senza cedere alla pressione degli integralisti laici che reclamano la sua esclusione dallo spazio pubblico». Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Il teologo che fa uscire nelle piazze» di Luigi Accattoli, del Corriere della Sera del 1 luglio. I ricercatori allestiscono laboratori in luoghi sempre più estremi per osservare meglio i fenomeni. Elena Dusi su Repubblica ci accompagna nella rassegna dei Test of Limits. Non è più tempo di pendoli e palline che rotolano lungo piani inclinati. Oltre al genio, la scienza oggi richiede spirito di avventura e per raggiungere i loro risultati, i ricercatori scalano montagne, toccano il fondo del mare, si calano in miniere abbandonate o si adattano a temperature antartiche. Gli esperimenti sono sempre più estremi, grandi, complessi, lunghi, costosi e situati in luoghi impervi. Per le loro dimensioni hanno bisogno di centinaia o migliaia di persone. Ne parlano un libro appena uscito negli Stati Uniti, The Edge of Physics, di Anil Anantaswamy, e un documentario della BBC, World's Most Extreme Science Labs. Sul K2, per esempio, a quota 5.050 metri, 200 scienziati e altrettanti Sherpa si alternano nel laboratorio più alto del mondo. Si chiama Piramide e il suo principale organizzatore è il CNR italiano. Misura inquinamento atmosferico e salute dei ghiacciai. Non disdegna di ripulire il tetto del mondo dai rifiuti degli scalatori. Dal freddo al caldo estremo. Vicino a San Francisco, al Lawrence Livermore National Laboratory, tutto è pronto per l'esperimento che ambisce a traghettarci verso l'energia pulita. Una pallina di deuterio e trizio di un paio di millimetri verrà presto bombardata da 192 laser potentissimi. Dovrebbe raggiungere i 100 milioni di gradi, facendo innescare una reazione di fusione nucleare simile a quella del Sole. Si fregano invece le mani per il freddo i responsabili di Ice Cube, uno dei tanti esperimenti che per cacciare gli ineffabili neutrini va a scegliere i luoghi più scomodi del mondo. Lo scopo è trovare riparo da radiazioni dell'ambiente e raggi cosmici provenienti dallo spazio. Per questo Ice Cube sta piazzando i suoi sensori a 2000 metri di profondità sotto al ghiaccio antartico, mentre l'osservatorio NEMO, gestito dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha scelto di andare 3000 metri sotto al mare al largo di Capopassero in Sicilia. Secondo lo stesso principio, in Italia funziona da 30 anni il laboratorio del Gran Sasso, coperto da 1400 metri di montagna. E sul fondo del lago Baikal, a 1100 metri di profondità, è stato installato un altro telescopio cerca neutrini. In Ontario, Canada, una miniera esaurita è stata trasformata in centro di ricerche. Si chiama SNOLAB e ha ricavato 2000 metri quadri di laboratorio, penetrando 2 km verso il centro della Terra. Dei raggi cosmici va invece alla ricerca Auger, l'esperimento più vasto del mondo. In 3000 km quadri nella Pampa argentina, ai piedi delle Ande, i ricercatori hanno piazzato 1600 rivelatori che si accendono ogni volta che vengono attraversati dalle particelle ad alta energia. Osservando la mappa completa dei rivelatori illuminati, i fisici possono ricostruire l'andamento della pioggia di raggi cosmici dall'atmosfera fino alla Terra. Scienza estrema e avventura vanno spesso a braccetto, ma non mancano le eccezioni. Anche se non si è mai spostato dal foyer del Dipartimento di Fisica dell'Università di Brisbane, l'esperimento per misurare la viscosità della pece, contando le gocce che cadono da un imbuto, ha battuto un suo record. È iniziato nel 1927 e finora le varie generazioni di professori hanno registrato sui loro taccuini 8 gocce. L'ultima è caduta nel 2000 e la trepidazione è alta. Da un momento all'altro si attende la prossima. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Elena Dusi, Esperimenti, da Repubblica del 1 luglio. Sviluppatore informatico punta sul guadagno facile dell'App Store, il negozio di applicazioni lanciato da Apple. Crea la propria app e la compra, ma con i soldi altrui. Frode a doppia ricaduta sull'App Store, il negozio di applicazioni lanciato da Apple. Uno sviluppatore informatico, Tuat Nguyen, ha puntato sul guadagno facile e illecito e ha pubblicato i suoi software per leggere ebook nella vetrina dell'azienda di Cupertino. Poi ha utilizzato le password di altre persone per comprarli. È entrato in possesso dei dati di altri utenti attraverso iTunes, la piattaforma utilizzata da Apple per gestire la musica digitale. Il risultato dell'operazione è stato duplice. Ha ricevuto subito denaro sul suo conto corrente, in modo apparentemente legale, e ha scalato la classifica dei software più venduti sull'App Store. Nella sezione dedicata agli ebook, infatti, 41 applicazioni progettate da Tuat Nguyen erano nella lista delle prime 50. L'obiettivo era convincere all'acquisto altri utenti, grazie alla presenza nell'area più visibile della vetrina di Apple, e ottenere un secondo guadagno attraverso il denaro speso da chi avrebbe scaricato le sue applicazioni. Secondo le prime indagini, Tuat Nguyen non sarebbe l'unico ad aver sfruttato le zone d'ombra. Anche altri programmatori software disonesti hanno messo in pratica la tecnica dei falsi acquisti. È una lista che si allunga con il passare delle ore, attraverso le segnalazioni del pubblico di Internet. Le prime denunce sul web riportano che la cifra sottratta alle persone attraverso iTunes sarebbe arrivata fino a $1,400 per utente. Il metodo Nguyen prevedeva di mettere nel carrello della spesa due applicazioni poco costose e una più dispendiosa, per arrivare ad una cifra minima di circa $100. Apple ha rimosso in poco tempo dall'App Store i software incriminati, ma la discussione su Internet continua. Negli spazi online di social network come Twitter e Facebook, le persone hanno denunciato i danni subiti in brevi messaggi e le loro segnalazioni sono rimbalzate fra blog, forum di appassionati e reti sociali sul web. Le prime indicazioni mostrano che la truffa ha superato i confini degli Stati Uniti per coinvolgere anche altre nazioni. Apple non è stata l'unica a entrare nel mirino dei criminali informatici a poche settimane dall'incursione che ha portato al furto di dati subito da chi aveva acquistato un iPad negli Stati Uniti. Per 2 ore anche YouTube è stato sotto attacco dagli hacker. I pirati digitali hanno dirottato parte del traffico destinato ai video verso siti per adulti, sfruttando alcune falle nelle difese informatiche del sito di videosharing, e hanno pubblicato falsi annunci per comunicare la morte di un cantante canadese, Justin Bieber, durante un incidente automobilistico. I primi ad accorgersene sono stati gli iscritti di Facebook e Twitter. Hanno descritto in diretta l'assalto degli hacker criminali all'interno degli aggiornamenti pubblicati sui profili dei social network. Il team di Google ha messo lo scacco, seppure momentaneo, alle sue misure di difesa. Per alcune ore è stata in difficoltà anche Wikipedia, i server che custodiscono le pagine dell'enciclopedia online nella struttura di Tampa. Si sono surriscaldati e le richieste sono state deviate verso altri centri, che però non hanno retto al sovraccarico. Risultato: Wikipedia è irraggiungibile. L'intervento dei volontari che collaborano al progetto è riuscito a ripristinare l'accesso delle voci enciclopediche. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luca Dello Iacovo, crea la app e poi la compra, ma con i soldi altrui, dal Sole 24 Ore del 6 luglio.